quante volte ho pensato ad averti incontrato, cento volte ho capito d'avere sbagliato, ma è bastato un tuo piccolo gesto, così logico quando l'ho visto, per capire che eri proprio tu. Non ci sarà un altro amore, non ci sarà un'altra volta, non ho più il cuore libero, non c'è spazio per altre storie, non ci sarà. Lo sapevo che da qualche parte esistevi, t'ho cercata, t'ho trovata in mille amori, ma ogni volta mancava qualcosa, sì, mancava quel piccolo gesto, e alla fine tu, finalmente tu. Non ci sarà un altro amore, non ci sarà un'altra volta, mi mancava sulla mia strada, eri tu e comunque vada, non ci sarà. Sembra impossibile.